L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Oggi partiamo con qualche minuto di ritardo, abbiamo lasciato doverosamente spazio agli aggiornamenti su Messina, sui nubifragi che stanno colpendo la Sicilia, dei quali tra l'altro noi non ci occuperemo specificatamente oggi all'ottavo giorno, però ci sono tante notizie da raccontare in questa settimana, da sabato scorso 26 settembre fino a ieri venerdì 2 ottobre. Scudo fiscale, Patrizia D'Addario apparsa in TV per la prima volta in Italia da Santoro, poi il caso Polanski, quello di Garlasco, insomma tante cose. Noi cominciamo in ordine cronologico perché domenica scorsa si sono svolte le elezioni tedesche, arrivate puntuali dopo 4 anni di grosse coalizioni. Per molti osservatori è stata una campagna elettorale noiosissima, la più noiosa della storia tedesca. Forse anche il risultato che ha visto vincere la Merkel è piuttosto scontato. Sentiamo allora com'è andata nel riepilogo di Cristina Carpinelli. Angela Merkel, in arte Angie Superfrau, così come la chiamano i suoi sostenitori, vince anche sui suoi nuovi alleati, i liberali dell'FPD. Il partito guidato dal giovane intellettuale gay Guido Westerwelle diventa partito di governo. La CDU vince grazie alla Merkel e ottiene il 33,5%, perdendo l'1,7% dalle scorse elezioni. I liberali volano al 15% più 5,2% e tornano a governare dopo 11 anni d'assenza. I due partiti, dal campo moderato quindi, ottengono rispettivamente 229,95 seggi, ovvero 324 seggi su 598 del Parlamento federale. Bassa l'affluenza, forse la più bassa degli ultimi 60 anni, e tracollo dell'SPD, gli altri due temi importanti di queste elezioni tedesche. Gli elettori hanno scelto la Merkel affidandole un mandato chiaro, svolta conservatrice moderata, nuova coalizione di centrodestra con i liberali, ma soprattutto rottura della Gross Koalition con la socialdemocrazia che ha governato negli ultimi 4 anni. E per l'SPD, il più antico partito della sinistra europea, è il peggior risultato, una vera catastrofe. Meno 24%, non è mai andata così male. Restano all'opposizione, ma guadagnano consensi invece sia la sinistra dei Linke, che diventa il quarto partito tedesco, che i Verdi. Ci ha raggiunto in collegamento telefonico da Francoforte Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Germania. Buongiorno Beda. Buongiorno. Allora Beda, intanto rapidamente, che cosa non ha detto questo esauriente servizio di Cristina Carpinelli sulle elezioni tedesche? Ma credo che abbia detto tutto sul presente e naturalmente non poteva dire molto sul futuro, perché lunedì le cose non erano chiare e soprattutto i partiti non avevano preso posizione. Era la giornata dedicata alla felicità per la vittoria. In questo nuovo governo, che dovrebbe essere formato entro il 9 novembre, così ha detto la signora Merkel, è un governo di centrodestra, ma è un governo abbastanza sui generis, perché molto dipenderà dall'equilibrio tra le due forze politiche. Da un lato i democristiani della signora Merkel, che hanno occupato il centro della scena politica negli ultimi anni e che hanno una forte anima sociale che si è rafforzata durante questi 2 anni di crisi economica. Dall'altro abbiamo un partito liberale forte, più forte del solito, che invece ha fatto campagna elettorale per più mercato e meno Stato, fondamentalmente, per dire le cose molto semplicemente. Che in tempi di crisi può anche essere avventuroso come schema politico, no? Sì, naturalmente c'è un motivo, e c'è un motivo storico per la vittoria dei liberali alle elezioni di quest'anno. Il motivo storico è relativamente semplice. Le radici di questo partito liberale tedesco sono fondamentalmente in una dottrina nata negli anni 20 e 30 in Germania, che si è opposta all'economia dirigista nazista durante la dittatura. Dopo la guerra, negli anni 40 e 50, proprio perché la Germania stava cercando dottrine politiche ed economiche che non avevano avuto nulla a che fare con il periodo hitleriano, questa dottrina liberale ritornò in auge. E non è sorprendente che abbia avuto proprio quest'anno il miglior risultato. Non soltanto questa dottrina è sempre stata presente nella vita politica tedesca negli ultimi 60 anni, ma quest'anno, con l'ingresso dello Stato nell'economia, nel capitale delle banche, con il salvataggio di Opel e con varie operazioni di politica economica molto invasive, è evidente che i liberali tedeschi sono rimasti scioccati e quindi hanno deciso di votare per questo piccolo partito, che oggi però spesa per il 15% dell'elettorato. Quindi Beda, mi sembra di capire che se la campagna elettorale, come abbiamo ricordato, è stata piuttosto noiosa, se il risultato finale è stato scontato, probabilmente gli effetti di questo voto non saranno altrettanto scontati né per la Germania né di riflesso per l'Europa. Adesso vorrei ascoltare insieme a te, naturalmente anche agli ascoltatori, un intervento sempre di lunedì mattina di Angelo Bolaffi, noto filosofo e germanista. Poi naturalmente su questo ragioniamo insieme. L'intervista è sempre di Cristina Carpinelli. Il Partito Liberale ritorna al governo come lo era stato col cancelliere Kohl per 15 anni. Adesso a questo punto credo che l'elettorato tedesco si attenda un governo che prenda delle decisioni importanti in politica economica. Teniamo conto che la grande coalizione, per la verità, non ha governato malissimo. La Germania è il paese che ha il più basso tasso di disoccupazione in Europa. Ecco, quindi secondo lei a far decidere all'elettorato che è andato a votare, perché tra l'altro l'altro dato indicativo è la bassa affluenza, diciamo, quella è quello che ha punito la SPD. Sicuramente il 90% di chi non ha votato era un ex elettore socialdemocratico. Ma su questo elettorato che ha deciso di non andare addirittura, quindi un gesto molto forte, che cosa ha inciso? Per questo elettorato qui c'è la delusione della politica nei confronti del governo, ritenuto un governo troppo poco impegnato dal punto di vista sociale, c'è il problema dell'impegno tedesco in Afghanistan, tutti temi molto sentiti a sinistra, e soprattutto credo che sia un giudizio molto negativo sulla dirigenza socialdemocratica. Ogni commento su quello che ha detto Bolaffi, che abbiamo riascoltato pochi minuti fa, è gradito. A questo aggiungo io una mia riflessione e sarei curioso di sapere il tuo parere, perché sempre lunedì, quindi a caldo, dopo la vittoria della Merkel, ho letto due giudizi completamente opposti su quello che attende la stessa Merkel. Perché, per esempio, sulla stampa Marcello Sorgi ha scritto: ora Angela farà come la Thatcher, quindi dovrà essere più decisionista rispetto alla politica di mediazione che ha attuato in questi anni anche per via della grossa coalizione con la SPD. Dall'altra parte invece sul Corriere della Sera, intervistato Rocco Buttiglione, che conosce molto bene la Germania, ha detto: attenzione, i paragoni con la Thatcher sono del tutto inopportuni, perché prevarranno le doti della Merkel di equilibrio, misura, addirittura di compromesso, che per Buttiglione non è una brutta parola. Beda, come vedi il futuro della Merkel? Thatcheriano o poco thatcheriano? Ma direi poco thatcheriano, credo proprio poco thatcheriano. Quindi ha più ragione Buttiglione? Direi di sì, credo che la signora Merkel abbia avuto a un certo punto nella sua esperienza politica degli ultimi 20 anni un momento in cui pensava di poter introdurre in Germania delle riforme economiche drastiche. Per esempio nel 2005, quando nella campagna elettorale precedente sfidante era Gerhard Schröder, in quella circostanza la signora Merkel aveva lanciato la proposta di una riforma radicale del sistema fiscale, con l'introduzione di una sola aliquota e l'abolizione di tutte le detrazioni e di tutte le deduzioni. Questa proposta non venne amata dalla pubblica opinione, e la CDU, che allora aveva 10-12 punti di vantaggio nei confronti dell'SPD a 4 settimane dal voto, vide l'intero vantaggio evaporare nel giro di pochissimo. La signora Merkel riuscì a vincere le elezioni del 2005 con una distanza di alcune migliaia di voti rispetto all'SPD. No, ho l'impressione che la signora Merkel rimarrà molto prudente in questa fase. E credo che la Süddeutsche Zeitung, il giornale bavarese, ha avuto una formula interessante nel definire un po' la situazione della signora Merkel. Se la signora Merkel decide di rimanere pragmatica e di rispettare l'anima sociale del suo partito, rischia di avere dei problemi con l'FDP. Se invece decide, come non credo farà, di avere invece una politica più thatcheriana, come si dice, invece rischia di avere dei problemi con l'FDP, con il suo partner liberale. Quindi è un po' in un dilemma, ma credo che sia un dilemma fino a un certo punto, perché credo che la signora Merkel, come ho detto, seguirà invece una linea più sociale. Però insomma mi sembra un mosaico piuttosto complesso. Beh, abbiamo ancora un paio di minuti insieme e un paio di domande. Uno, vorrei capire, anche a beneficio dei nostri ascoltatori, proprio in estrema sintesi, quali sono i punti che uniscono i liberali al partito della Merkel e quelli invece nei quali i due partiti sono più distanti. Mi sembra utile fare un po' una scaletta dei motivi pro e contro tra le due anime di questo governo che sta per nascere della Germania. Ma credo che il punto di maggiore contrasto sia la riforma al mercato del lavoro, fondamentalmente. L'FDP è pronto a riformare il mercato del lavoro e a permettere il licenziamento un po' più libero da parte delle imprese, tendenzialmente. La CDU è contraria. Questo mi sembra l'aspetto più chiaro. Un altro aspetto di possibile tensione è sulla sanità e sulla riforma del sistema sanitario. L'FDP è pronto a delle riforme radicali, la CDU no. Terzo punto di tensione, direi il servizio militare. La Germania è ancora un paese dove esiste il servizio di leva. L'FDP vorrebbe abolirlo, la CDU invece è contraria e crede che vada tenuto. Questi tre aspetti così di tensione. Un altro aspetto di tensione, ma che in realtà sarà un punto di contatto fra i partiti, è l'allentamento fiscale e i tagli fiscali. Tutte e due i partiti vogliono tagliare le tasse, ma bisognerà trovare un accordo sull'ammontare e sulla tempistica. I liberali naturalmente vorrebbero tagliare in modo più radicale, la CDU invece è più preoccupata dall'andamento dei conti pubblici. Troveranno un accordo, ma sarà il punto in cui bisognerà discutere di più. Ringrazio Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, per il contributo e per le riflessioni sulle elezioni tedesche di domenica scorsa. L'ottavo giorno. Abbiamo dedicato la prima parte dell'ottavo giorno di oggi alla Germania, alle sue elezioni che hanno riconfermato la Merkel alla guida del paese. Avete sentito, avete letto di elezioni normali, senza troppe polemiche dopo il voto. Veniamo invece all'Italia, che mi sembra invece, permettetemi l'espressione, invischiata in tutt'altro guano. Nel senso che, se devo trovare una parola, una sorta di filo rosso che unisce i fatti della settimana politica che in questi minuti andremo a rivivere, mi viene in mente soltanto la parola veleno, perché dallo scudo fiscale all'ennesimo scontro tra magistrati e maggioranza, persino a quella che è una questione che poi dovrebbe essere tutta interna al PD, come la scelta del nuovo segretario, continuiamo ad assistere a polemiche esageratamente sopra le righe. E questo mi ha fatto anche pensare a una cosa che ho sentito pochi giorni fa detta da Roberto Saviano in un'intervista a Sky. Ha detto che, insomma, in questi anni, tutti conoscete la sua vicenda, è stato molto all'estero, ha visitato gli Stati Uniti, la Spagna, è stato nel Nord Europa, e a confronto ha detto che l'Italia gli sembra un paese cattivo, nel senso di cinico, in malafede. Insomma, credo che si debba riflettere sulle parole dello scrittore napoletano. Veniamo allora alla cronaca di questa settimana politica, perché a surriscaldare gli animi provvede subito nel weekend scorso Silvio Berlusconi a Milano, dove è in corso la prima festa nazionale del PDL, tra l'altro Berlusconi in settimana ha anche compiuto gli anni. Domenica il Premier chiude la festa del PDL con un comizio show, attacca il Partito Democratico, ma anche, seppur velatamente, Fini, che vuole accelerare, lo ricordo, i tempi sulla cittadinanza agli immigrati. Poi lunedì arriva una nuova puntata dell'eterna lotta tra magistrati e politica. Sentiamo Raffaella Calandra. Il CSM contro Brunetta, il guardasigilli contro le toghe, e nel bel mezzo dello scontro rovente il portavoce del ministro della pubblica amministrazione propone, tra il serio e il faceto, un braccialetto elettronico per i magistrati. Diventa sempre più alta la tensione tra politica e giustizia. La veemenza e la violenza verbale non facilitano il confronto costruttivo tra le istituzioni, scrive il vicepresidente di Palazzo dei Marescialli Nicola Mancino, contestando a Brunetta affermazioni sopra le righe che possono solo ridurre ulteriormente il prestigio dello Stato. Un mostro fatto di correnti e di fannulloni che alle due sono già a casa, così il ministro aveva descritto le toghe, attirandosi la risposta irata dell'ANM, secondo cui il governo fa solo leggi che bloccano gli ingranaggi della giustizia e chiede di non fissare udienze pomeridiane per non pagare straordinari. È una risposta troppo forte, controbatte il guardasigilli Alfano, citando provvedimenti come la riforma del processo civile di largo consenso pubblico, dice. In questo clima rovente, a sera arriva la provocazione del portavoce del ministro Brunetta, secondo cui più che i tornelli già proposti anche per le toghe, ci vorrebbero i braccialetti elettronici. La TV è sempre più politica e la politica si fa sempre più in televisione. Se volete, possiamo sintetizzare così la settimana di polemiche, attese, accuse, indiscrezioni, smentite. Tutto attorno ad anno zero, perché mentre il governo ha aperto un'istruttoria proprio sul programma di Rai 2, il suo conduttore, il suo leader massimo, se volete, Santoro, per la seconda puntata ha deciso di giocarsi il Jolly, la puntata di giovedì di due giorni fa, cioè l'intervista in diretta a Patrizia Daddario, in fondo la madre di tutte le escort, finite poi nello scandalo che tocca anche Berlusconi. Giovedì sono addirittura 7 milioni davanti al video per la prima apparizione sulla TV italiana della Daddario e hanno visto questo che ci racconta adesso Paolo Panceri. È stata in forse fino all'ultimo non solo la presenza di Patrizia Daddario ad Anno Zero ieri sera, ma anche la messa in onda della stessa trasmissione. L'ufficio legale di Viale Mazzini aveva recapitato al conduttore un parere negativo sulla partecipazione della donna chiesto dalla direzione di Rai 2. Puntata regolarmente in onda invece e Santoro l'ha iniziata con queste parole. L'unica cosa che non farò, l'ho detto all'inizio di Anno Zero, è quello di smettere di andare in onda. Quindi se loro vogliono che io non vada in onda, devono dire che non devo andare in onda. Se no, fino a quel punto là, io sempre in onda sto. Dibattito sul sistema Tarantini per oltre mezz'ora, poi in collegamento da Bari arriva Patrizia Daddario. La sua intervista, la prima su una televisione italiana nazionale, in sostanza non aggiunge nulla di nuovo a quanto già era noto. La donna conferma le sue dichiarazioni e ribadisce: io confermo tutto, assolutamente no. Il Presidente del Consiglio lo sapeva che lei era una escort? Sì che lo sapeva. L'unica notizia a questo punto resta la sua presenza sulle reti Rai, non solo su Rai 2, ma in seconda serata anche a Porta a Porta, dove ampi stralci dell'intervista sono stati trasmessi da Bruno Vespa. Collegato ad Anno Zero e a Santoro c'è indiscutibilmente anche il tema della libertà di stampa. Oggi ci sarà una manifestazione della Federazione appunto della Stampa a Roma che non passerà sicuramente inosservata. Sicuramente saremo qui tra 7 giorni a riparlarne. Intanto, mentre tante discussioni in settimana ruotano appunto attorno a Santoro e alla Rai, dentro e fuori il Parlamento è battaglia, anche feroce, a tratti davvero durissima, sullo scudo fiscale. Nella puntata di sabato scorso abbiamo ampiamente parlato del provvedimento in compagnia del collega del Sole 24 Ore Dino Pesole, che ci ha spiegato i pregi e i difetti di questo provvedimento. Ieri intanto è arrivato il via libera definitivo della Camera. Sentiamo Vincenzo Miglietta. Quanto accaduto alla Camera, quasi dell'incredibile, come se, usando una metafora calcistica, all'ultimo minuto la squadra più debole sprecasse un calcio di rigore. Se l'opposizione infatti fosse stata al completo con i suoi 279 deputati, il decreto anticrisi che contiene il discusso scudo fiscale non sarebbe passato. Il testo è stato approvato invece con 270 sì contro 250 no. Del PD mancavano 22 deputati, 6 dell'UDC e 1 dell'Italia dei Valori. Situazione analoga nella maggioranza, 31 gli assenti nel PDL, 4 nella Lega. Assenze a parte, gli attimi che hanno preceduto il voto hanno rasentato la bagarre. A scatenarla l'Italia dei Valori, prima esponendo le agende rosse di Borsellino, poi dando del mafioso al governo così barbato. State aiutando la mafia con atti legislativi. A protestare tutto il centrodestra, ma anche l'UDC con Casini. Se continua così l'Italia dei Valori, Berlusconi rimarrà al governo per altri 60 anni. Poco dopo la sospensione dei lavori e poi alla ripresa le parole del presidente della Camera Fini. L'ufficio di presidenza valuterà la, a mio avviso, oggettiva gravità di quel che è stato detto e deciderà in quella sede gli eventuali necessari provvedimenti di tipo disciplinare. Adesso dalla politica passiamo ad una serie di notizie purtroppo terribili, tragiche, che possiamo inserire alla voce disastri naturali. Di quello che sta accadendo a Messina noi oggi non ci occupiamo specificatamente perché c'è stato un lungo aggiornamento prima dell'ottavo giorno, ce ne saranno altri subito dopo e nel corso della giornata. Dunque noi ci concentriamo su quello che invece è successo in questi stessi giorni molto lontano dall'Italia nel Pacifico. Cominciamo dalle isole Samoa, che martedì sono colpite da un terremoto e da uno tsunami. La miscela è devastante, è spaventosa. Sentiamo il servizio di mercoledì sera di Alessio Maurizi. Prima è arrivato il terremoto alle 6:48 del mattino con epicentro 200 km a sud-ovest delle Samoa americane. Una scossa di magnitudo 8.3 a 18 km di profondità. Poi lo tsunami, uno dei più violenti degli ultimi anni, con onde alte fino a 10 metri, come spiega il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Enzo Boschi. La scossa è stata fortissima, ma più forte dal terremoto del 2004, quello che generò il grande maremoto. L'onda in mezzo all'oceano può diventare estremamente elevata quando arriva sulle coste, sulla base di com'è la conformazione delle coste stesse. In questo caso mi risulta che si sia arrivati anche a 8-9 metri di altezza. E così in pochi istanti le coste delle Samoa, un paradiso naturale nel Pacifico meridionale, posto in una delle zone più sismiche del pianeta, vengono sconvolte dall'urto devastante del mare. Niente sarà più come prima, ha detto il primo ministro sconvolto sconforto per l'accaduto. Duramente colpita la costa meridionale dell'isola Upoli, la più frequentata dai turisti. Oltre ai morti e ai feriti, c'è anche un numero imprecisato di dispersi. Tutti salvi gli italiani, 16, che risultano vivere nei luoghi colpiti, secondo l'ambasciata. Mi sono salvata per miracolo, racconta una connazionale, Daniela Brussani, che gestisce un resort pochi chilometri dalla capitale, a Pia. Difficile stilare un bilancio ancora definitivo di quanto è successo a Samoa. Ieri comunque il bollettino ufficiale purtroppo recitava 155 vittime. Tra l'altro sempre ieri la terra ha ancora tremato nelle isole Samoa, però per fortuna la scossa è stata meno intensa di quanto accaduto martedì. Ancora peggiore purtroppo lo scenario e soprattutto peggiori le conseguenze in Indonesia, perché il giorno dopo, mercoledì, c'è un terribile terremoto da quelle parti. I morti sono più di 1000, l'Italia tra l'altro è già attiva per gli aiuti sul fronte degli aiuti umanitari, come conferma Valentina Fulanetto Aaron Cristellotti, che è delegato in Indonesia per l'associazione umanitaria Terre des Hommes. L'intervista la tenuta ieri nel GR delle 13. Si sta cominciando ad attivarsi. Noi per esempio siamo appunto tramite i nostri partner già attivi sul campo e vediamo che comunque ci sono altre organizzazioni che si stanno mobilitando. In questo momento quali sono le principali difficoltà che incontrate nel portare gli aiuti? Dalle informazioni che i miei partners mi mandano, ci sono dei villaggi che sono completamente tagliati fuori e che sono stati i più colpiti, tra l'altro. Sono zone particolarmente povere? Ci sono effettivamente delle zone, soprattutto nelle periferie, dove diciamo che la ricchezza non è molto ben distribuita e quindi soprattutto formata da contadini e quindi di difficile accesso, poco servita anche dalle comunicazioni. Per chi ci segue da tempo sa perfettamente che l'ottavo giorno ci permette la possibilità di saltare da un argomento all'altro improvvisamente, anche senza un vero e proprio collegamento. Così questi ultimi minuti di questo spazio della terza parte dell'ottavo giorno la voglio dedicare per riassumere i fatti riguardanti Roman Polanski, il famoso regista del Pianista, di Frantic, di Per favore non mordermi sul collo e di tanti altri capolavori del cinema. Il regista polacco, che oggi, lo ricordo, ha passaporto francese, domenica viene arrestato in Svizzera per una storia vecchia di 30 anni, ma non per questo caduta in prescrizione. Sentiamo Marta Cagnola. La prima volta ne parlò nel 1987 in un'intervista a Diane Sawyer. Do you want to come back? I certainly would like to be able to go back. Can we start it again? Of course. I need a second. Roman Polanski era teso, chiese di ricominciare l'intervista da capo. Non aveva mai raccontato di quando, 10 anni prima, aveva costretto ad avere un rapporto sessuale con lui Samantha Geimer, 13 anni, a Los Angeles, in una casa allora di proprietà dell'attore Jack Nicholson. I know now it was not the right thing to do, but there was no premeditation, you know, it was something that just happened. Ora so che non era la cosa giusta da fare, ma non ci fu premeditazione, semplicemente successe. La ragazza lo denunciò, lui riconobbe la sua colpevolezza, ma si difese dicendo che la giovane era consenziente. Fu condannato a 42 giorni di carcere, fu rilasciato con la condizionale, ma nel timore che i giudici lo condannassero a un ulteriore periodo di carcere, lasciò il paese. Da allora Polanski non è mai più tornato negli Stati Uniti, nemmeno quando vinse l'Oscar per Il Pianista. The Oscar goes for Roman Polanski. Congratulates Roman Polanski and accepts this award on his behalf. La Francia e la Polonia, così come l'Associazione dei registi polacchi, chiedono ora la sua liberazione. La vittima dello stupro, che ora ha 45 anni, chiede che il caso venga chiuso, che le accuse siano ritirate e dice: anch'io sono diventata vittima delle azioni del procuratore. Attorno a Polanski si è acceso un incredibile, intenso dibattito in questi giorni. Molti colleghi, molti registi e uomini di cultura hanno subito firmato appelli per la liberazione di Polanski. Altri invece non accettano che il regista venga trattato in modo diverso, in modo speciale rispetto alla norma. Qualcuno ha usato anche un'espressione tutto sommato felice, quella di non applicare un lodo Polanski per la terribile questione che è in ballo. Insomma, si parla pur sempre di uno stupro, quindi un fatto gravissimo per una tredicenne. La questione dunque rimane aperta, direi anche a livello diplomatico, perché c'è stata in questi giorni una sfida, una guerra sottile tra Stati Uniti da una parte, che vogliono assolutamente l'estradizione, e la Francia, che ha difeso Polanski, anche se nelle ultime ore il sostegno che era incondizionato nei primi giorni adesso si è un attimo stemperato, si è un attimo placato da parte di Parigi. Quindi vedremo come proseguirà e come soprattutto finirà questa vicenda. L'ottavo giorno. Dalla vicenda di Polanski ad un'altra vicenda giudiziaria, per carità, le analogie sono pari a zero perché siamo in un contesto completamente diverso, la storia e i personaggi in ballo sono molto diversi. Sto parlando dell'omicidio di Chiara Poggi, quindi della vicenda di Garlasco, perché lunedì arriva un colpo di scena davvero incredibile e questa volta a vantaggio dell'unico imputato, Alberto Stasi. Sentiamo Lara Vecchio nel GR delle 7 di martedì. Nuovi scenari si profilano per Alberto Stasi, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, alla luce delle nuove perizie dei consulenti super partes disposte dal giudice Stefano Vitelli. I medici legali di fatto sbriciolano gli indizi raccolti in 2 anni e mezzo dalle indagini della procura di Vigevano, a partire dalle suole immacolate delle scarpe di Alberto, considerate fin qui un segno di freddezza perché, secondo l'accusa, ripulite dopo il delitto. Secondo i periti, invece, quelle tracce inevitabili avrebbero potuto sparire al semplice contatto con l'erba bagnata fuori dalla villa. Sono state anche stabilite l'impossibilità di valutare con certezza l'ora del decesso e fasi dell'aggressione cronologicamente distinte. Inoltre Alberto, secondo una perizia informatica ancora ufficiosa, sarebbe stato realmente al computer la mattina del delitto e il materiale biologico di Chiara rinvenuto sui pedali della bicicletta di Stasi potrebbe non essere sangue. Tutte informazioni che rinfrancano la difesa, che per la prima volta intravede concretamente una possibilità di assoluzione. E adesso chiudiamo questa puntata dell'ottavo giorno decisamente su ben altre note, molto più lievi, quelle dello sport, e abbiamo chiamato una delle voci per antonomasia dello sport di Radio 24, Dario Ricci, che è in collegamento con noi. Buongiorno Dario. Buongiorno Emiliano, buongiorno agli ascoltatori. Allora Dario, abbiamo pochissimi minuti, però insomma vorrei sviscerare almeno tre argomenti tassativi: calcio, Formula 1 e Olimpiadi 2016. Partiamo dal calcio, perché in questa settimana ci sarebbe molto da parlare di calcio, c'è cioè, per esempio la bellissima storia della Sampdoria, prima in classifica in campionato, non accadeva dai tempi di Vialli, Mancini e Mantovani presidente. L'Inter non è certo in un momento dei migliori, Mourinho è molto nervoso, in Champions la squadra non ingrana. Però, caro Dario, direi che la notizia più importante della settimana è la crisi profonda del Milan, che va male in campionato, va male anche in Champions League. Questa settimana ha perso in casa con lo Zurigo 1-0, chi l'avrebbe mai pensato che una squadra svizzera avrebbe vinto a San Siro. Ecco, per esempio, a cosa devono aggrapparsi i tifosi rossoneri. Sentiamo questo divertente servizio di Massimo Di Scienza. E Savicevic gli ruba la palla e poi segna un gol incredibile! Se negli ultimi giorni avete rivisto più volte il DVD di questa partita, Milan-Barcellona 4-0, Coppa Campioni del 94, non preoccupatevi, siete veri tifosi del Milan ed in ottima compagnia. Per dimenticare i problemi di oggi, infatti, sembra che sempre più milanisti scelgano di spegnere il satellite ed accendere il videoregistratore. Un tuffo nel passato, glorioso anche se piuttosto remoto, cancella le amarezze del presente. Ultima, la sconfitta interna con lo Zurigo, una tendenza che prende piede ma che non convince tutti. Tiziano Crudeli, giornalista che ha ben chiaro il polso del tifo rossonero. No, io vivo nel presente, quindi di conseguenza viviamo questo momento senza fasciarsi la testa, perché non abbiamo ancora compromesso nulla, anche se la situazione è molto delicata. Il tifoso del Milan imputa a Leonardo le colpe maggiori, ma quali sono? Ma di non aver messo in campo la squadra, di non aver dato un gioco a questa squadra. A Leonardo resta solo la trasferta di domenica a Bergamo, una vittoria gli salverebbe la panchina, altrimenti tornerà anche lui ad essere solo un fotogramma da un DVD del passato. Dario Ricci, proviamo a sorridere sulle disgrazie del Milan. Che possiamo aggiungere a questo servizio davvero curioso di Massimo Di Scienza? Beh, Massimo ha toccato tutti i punti centrali della crisi rossonera. Bergamo sarà un po' lo spartiacque di questo inizio della stagione. Io sono tra quelli, ad esempio, che non attribuisce eccessive colpe a Leonardo, forzato della panchina rossonera, entrato nella società con tutt'altro ruolo e in panchina per ragioni di Stato. È chiaro, anche lui è in qualche modo responsabile di questa situazione, ma è una società che in questo momento non ha chiari gli obiettivi finali del proprio viaggio e quindi è difficile anche individuare la rotta, Emiliano. Senti Dario, se il Milan piange, l'Inter direi che non ride in questo momento, perché in campionato non sta andando benissimo come ci si aspettava, vista soprattutto la formazione, i giocatori che ha la squadra di Moratti. In Champions il cammino è abbastanza tortuoso, perché 2 pareggi dopo 2 partite rendono complicato qualificarsi nel girone che probabilmente sarà dominato fino alla fine dal Barcellona. Sull'Inter qual è la tua analisi? Ma l'Inter dipende dal suo traghettatore, anche in questo caso Mourinho, no? È lo specchio, la cartina di tornasole di quest'Inter. Il portoghese quest'anno ha la responsabilità di dimostrare che questa è veramente la sua Inter, no? Molti dicono che lo scudetto dell'anno scorso è stato comunque frutto, e ha ragione direi, dell'eredità manciniana. Quest'anno Mourinho ha sicuramente una squadra più aderente alle sue idee di calcio, ai suoi desideri, alle bizze fatte durante l'estate, perché lo ricordiamo, Mourinho era un passo da Real Madrid e solo un ritocco cospicuo al suo ingaggio lo ha tenuto a Milano. Beh, insomma, oneri e onori per chi sta sulla panchina dell'Inter. Adesso ci faccia vedere di che pasta è fatto, non solo come comunicatore ma anche come allenatore. Quindi per Mourinho, o quest'anno mai più all'Inter perlomeno. Allora Dario, il tempo davvero stringe, però sicuramente una battuta dobbiamo spenderla sulla Formula 1, perché mercoledì abbiamo tutti saputo ufficialmente la notizia che in realtà tutti conosciamo da tanti mesi, da tanto tempo, cioè Fernando Alonso, forse il più bravo pilota di questa generazione, di questo momento della Formula 1, passa dall'anno prossimo alla Ferrari. Dal tuo punto di vista che cosa significa questo, fermo restando che poi Raikkonen dovrà trovare una nuova squadra e quindi probabilmente il suo compagno di squadra sarà Massa, che è tornato finalmente in pista dopo il terribile incidente dell'Ungheria, l'abbiamo visto in buona forma nei go-kart brasiliani. Ma direi che con l'arrivo di Alonso la Ferrari ha fatto la miglior scelta possibile, perché insieme ad Hamilton secondo me è sicuramente il miglior pilota del circus. È anche una responsabilità per la scuderia, perché adesso bisognerà dargli una macchina nuovamente vincente, perché Alonso è un pilota che può aprire un ciclo come Michael Schumacher. Ha bisogno di una Ferrari all'altezza, e quindi adesso anche in questo caso gli oneri sono tutti su Maranello, sciolto finalmente questo nodo della prima guida. Allora Dario, un minuto ancora a nostra disposizione e chiudiamo con quella che è senza dubbio la notizia sportiva più importante della settimana, almeno a livello internazionale, e cioè l'assegnazione dei giochi olimpici del 2016. Allora Dario, nonostante il pressing di Obama e della moglie Michelle, alla fine i giochi del 2016 sono andati a Rio de Janeiro, la grande città brasiliana, quindi è stata sconfitta, possiamo dire, una doppia maledizione. Mai infatti un'Olimpiade era stata organizzata in Sud America e mai uno stesso paese, in questo caso il Brasile, organizzerà mondiali di calcio e Olimpiadi a soli 2 anni di distanza. Eh sì, 2014 e 2016, l'accoppiata vincente. Diciamo anche che Lula a questo punto ha battuto Barack Obama, a cui aveva anche rubato lo slogan, no Emiliano, alla vigilia del voto. Yes we can, aveva detto Lula, rubando lo slogan di Obama. Straordinario il successo di Rio, in rimonta negli ultimi giorni, e veramente sarà spettacolo, perché anche un po' il successo di tutta l'America Latina, e non è detto che poi sul piano internazionale sia una sconfitta per Obama, perché magari una vittoria all'ennesima statunitense nella corsa alle Olimpiadi sarebbe stata letta anche come un atto di protervia, di arroganza, e quindi pericolo evitato. Si chiude qui l'ottavo giorno di oggi, ci ritroviamo sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23, naturalmente sempre su Radio 24. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia, vi ricordo la mail a cui ci potete scrivere, ottavogiorno@radio24.it. Alla prossima da Emiliano Enrico.